Marhaba. How am I supposed to know when you're starting? How am I supposed to know when to start? From Milano. We are your radio cousins, and we just prepared 40 minutes, 45 minutes of music, a selection of sounds from Napoli, from the 1990s and the we hope you like it. Unirio, da quando sono chiuso qua dentro non mi è tornato tutto chiaro. Visori buoni, visori cattivi. Però, non so. Secondo te stiamo andando bene. Credi nel cielo, abbiamo ragione noi. Prima quando sono uscito li ho visti, qui. Sono armati come per la guerra, tutto l'esercito italiano ci ha tirato la fila. A che serve avere ragione quando poi sei morto? Questo è un pensiero difficile. Ti lascio solo. È un pensiero difficile, mi lasci solo. Che cos'è saggezza araba? Casi ma tutto quando si ma tutta africana ci sta chi da una botta e sempre sopra. Fumato un po' di oliva. sto sentire. Non ho una razza, un mistero. Je suis ici pour une information. Pourquoi aujourd'hui? Aujourd'hui, il a de sortir de la prison. Mon ami, un italien, il m'a dit qu'il a de sortir aujourd'hui à midi, à cette matinée, à les deux après. Bonjour, je m'appelle Punchia et je suis pour une information à 2 heures l'après-midi. Il est d'assurance in italien. Questo non capisce niente, non capisce. L'italien? Oui, oui. Giorgio, oui. Liber, liber. Liber, Rudy. E Rudy, cosa mi ha costante lascia le onde litigare, cosa che la testa, o almeno la mia testa, si diverte ad imitare. Dalla brina alla schiuma del mare mi sublima pensare al moto circolare delle onde. Mi sublima pensare al moto circolare delle onde. Mi sublima pensare al moto circolare delle onde. Mi sublima pensare al moto circolare delle onde. A parte questo, ritorno a pensare che per capire bisogna dilatare riflessi, renderci partecipi di processi complessi dello stato emotivo, posto sempre sotto pressione, e lo sforzo ad agire diventa una mera ragione, una scusa nella quale l'istinto si può rifugiare. Continuo a pensare al moto circolare delle onde. Circolare delle onde. Continuo a pensare al moto circolare delle onde. Continuo a pensare al moto circolare delle onde. Mi sublima a pensare al moto circolare delle onde. Mi sublima a pensare al moto circolare delle onde. Mi sublima a pensare al moto circolare delle onde. Mi sublima. We'll be right back. assai più brevi di quanto potessi temere. Mi mancano già questi luoghi, mi mancano già i vostri nomi. L'essenziale è invisibile agli occhi. Il cuore invece no, non può ingannarti. No, no, no, no, no, no, no, no. I pensieri scorrono più veloci della luce. I miei occhi parlano con un'altra voce. I pensieri scorrono più veloci della luce. I miei occhi impercettibili. Trasformare sorrisi in lacrime, impercettibili sfumature, così decise da trasformare cieli grigi in giornate di sole. Sempre sospesa a metà. È un gioco strano, tu non giocarlo mai. Starti vicino e cercarti per quello che non sei. E mi fa strano sentirmi così vicino a te mentre vado lontano. Ma questo lontano poi dov'è? Fermala tu quest'altalena adesso che io non so più dove mi spinge né perché. Fermala tu quest'altalena adesso che io non so più dove mi spinge né perché. Attimi in cui nulla sembra sia importante, esisto solo io e il resto non mi importa niente. Attimi in cui ogni cosa è necessaria ed improvviso io ti ho bisogno come l'aria. Quest'altalena adesso che io non so più, non so più dove mi spinge né perché. Fermala tu, fermala tu quest'altalena adesso che io non so più, io non so più dove mi spinge né perché. Segnalata da un sottomuro di pietre. E questa è la nostra pista. Certo, se avevo ancora il mio orologio. Ancora, Paolo. Se avevi ancora il tuo orologio, noi non avevamo la nostra bicicletta, quindi. E quindi? Se io non conoscevo voi, avevo ancora la mia macchina. E non stavo qua, ma vi rendete conto dove siamo, ragazzi? In mezzo al deserto, in bicicletta. Probabilmente persi. Non ci siamo, persi. Sicuramente persi. Siamo in un posto che non sappiamo neanche che posto è. Dove forse ci sono i due strozzi, lo dico forse. Sull'indicazione di un dentista. Tedesco. Albino. Drogato. Omosessuale. Ed è il suo concubino che è un ergastolano. Il dente è pronto. Cosa c'entra? Perché uno è un buon dentista, deve essere anche una guida indiana. Per esempio, Kit Carson è il miglior scout del mondo. Ma non estrai mica molare. Ci gommo con lo sol. Jo bërë shmëtë për të asaj. Unë në fukë la pasion e gjamë atë. Unë në citi nga në rekje. Du të sjenë dhe mërmullio. Mundë shkurtova kësta vidës në fa. Mundë shkurtova e dhe. Mundë shkurtova kësi në dhe kam bafa. Mundë shkurtova e dhe. Ma shorte ma misin de mano ove agenda vecchia ma chiama puttana la noce sa buda ma sto carcerà din da gas e non mo ga cabele questa non l'ha c'è trovato a chi ma schifori corpo tutto vino come a me non mi supporta questa ostacità i sono specchiato tu non te volisse mai guarda non te scuda non te scuda non te scuda perché se no che campa fa non te scuda non te scuda ma non da scuda, perché se non che gamba fa. Non da scuda, non da scuda, ma محكومة بالأعدام أمي جميلة من أجمل فتيات سهر غرام في دوامة الزمان شرح الحب والحنان فارس مجهول بلا عنوان وقت الجنس اللطيف والسهر والتزوير ولا للحياة تعبير في حالة حب وتحذير إلا لأنها أم غرتاش من دشكور دا من دشكور دا Shkurda për kësta vidës në fa Nëm dë shkurda maj Edhe Nëm dë shkurda Nëm dë shkurda Nëm dë shkurda për kësina dhe kam bafa Nëm dë shkurda Edhe Maj No Tu nëm dë shkurda Odissea. Yeah, Odissea. Yeah, Odissea. Odissea. Quando um golpe as pum, faz piuma, se esfuma. É inútil a votar com um golpe voca como a cuma. Sole e ori argente el duna. Eu vejo um golpe a costa fume. Eu vim de portas, olfe aroma. O golfe inspira o poema na sirena. Protagonista é Storicea. Merete nota como dota. Com loito como nota. Bela como lata. Mara como letra. Te cantas tu soneta que trata no retrata. Fata na dea. Me crerda. Parte na pé que o bela venera. E se é bugia bruxada. Mas niente que o fértil era a cenera. Não moras tete. Tenhas tu gena, é que a gama escorre linda e vena. Se põe uma espenga, sabes que terra é sangue. Como eu posso estar do bem, que São Michel ou Magama com fangue. É que a gama tem meu rango, é assim não vira. Escava, tesouro rindo coro como estiva. Só te anava, se o capinável até que te chiave. Ainda mana se traça, inferno é paravisa. Sacre profana, lota, trabela e caína. Que vá fazendo e volta santa, que ancora do mana. Se bila, sorte é destino. Cultura greco, latino, da moina. Trafasta e fata, nefasta, esta gente a mista, exalta gesta, basta casta e dinastia, filosofia e poesia, basta na ideia, e Nápoles distrugge e crea, Odissea. Yeah, Odissea. Yeah, Odissea. Odissea. Giovista posto giusto, ma nessuno con machista. Linnaggio conosciuto artista che per sta città c'è bastato il mio sto pa' contare. Per lo faccia sta, solo quando vire creare meraviglia ca. O solo che corre per corridoio e terra. A Lucca e Burdella manca c'è stessa guerra. Lazzare scugnizza fuori sti palazza. Razza in te panna stisi e nata razza su bandiera fora. Mi dei tesoro lo passata. O sapo un'ara te una giotta e non lo sapo. Se l'è scrutata. Poi c'è un arabo l'occhio. Rimmello tu specchio delle mie brame. Qual è più belle sture ame. Yeah. Napolo oggi, palevola ieri. A Callaria adore storia. E ho piacere a mezza sti quartiera. Se sente sfumatura ro dialetta. Capisce sta terra con quanta gente amore ha fatta. Yeah. Qui non mo mette notte con una stile. Vitto profile che stu con fette che fanno. E da chi stonna che bagna ne spone. La schiuma si crea. Nato poema come questo Odissea. Yeah, Odissea. Yeah, Odissea. Fan idea, te ne nomea, stu posto è un'odissea. Bene ma la verità è buciva così con matta i. Questa è la filosofia. Mm.